faccio, sto usando il S52, lo sto alimentando con il S52, lo sto trasformatore che è nero, capito? Che era un trasformatore dell'8,50, che credo che è uguale a questa linea lo stesso, è uguale identico. Questo è quello forse con più amperaggio ancora. Quanto ora? Che potenza tira fuori quello lì, dalle buone alle 40-45 mi sembra. Scusa, ho capito, hai detto? 40-45. Facciamo di più sinceramente, considerando la grandezza della fara. No, non è moltissimo. Non è l'unico che è quello. Era molti watt, però erano solo così. Ma pensavo un centinaio di watt tirasse fuori. No, no, non ci arriva, non ci arriva. Infatti il problema è sapere che aveva molti watt. Perché se hai voi ci vorrebbero almeno una cinquantina di watt, o un centinaio di watt in WF soprattutto. In linea di potenza è sempre meglio, almeno l'apparato non lo fai mai lavorare ai limiti. Vabbè, c'è da dire, se ne tira 50 watt, magari i componenti magari ne tira molto molto di più, normalmente li fanno un po' sovradimensionati, almeno questi apparati di questo genere, non è come un autoradio di macchina che per avere mezzo watt in più gli tirano il collo all'apparecchiatura, al transistor. No, ma io col 790 sono sempre 5-10 watt, arrivo dovunque e dappertutto in diretta senza nessun problema, i punti 10 trovo un poco, non ho nessun problema, servirà solamente quando con la direttiva per fare collegamenti in banda laterale, allora sì che un po' di watt lì ti servono, capito? Quando fai avanti di ex allora ti servono un po' di watt. In banda laterale andare anche sulle voci andate. Sì, ma soprattutto in V si fanno i collegamenti e ci vogliono, e lì un po' di watt ci vogliono. Ma in direttiva devi fare? Sì, devi fare in direttiva, anche in verticale per carità, se ce la fa, però se vuoi fare i collegamenti li fai in direttiva, se vuoi fare dietro. Cazzo. Sto cercando un'antenna, adesso avevo a Tonino, sta scombussolando mezza Sardegna, per trovare un'antenna per le bande, come si chiama? Si chiamano bloccati, non tanto tutto, 108, una, almeno una 5 elementi, non se ne trova da nessuna parte, anche se sono entrato su internet, niente, non ne fa più nessuno. Ha detto forse c'era questo tipo che c'era il magazzino da Fraccarlo, che ha chiuso, eccetera, eccetera, a Cagliari e non ne ha più, ha rispedito tutto su. Poi c'è un'altra persona, perché tu non è che c'è qualche contatto con qualcuno? Insomma, in trasmissione. No, mi dice trasmissione già le trovo, mi dice una cosa. Trasmissione ce l'ho anche un dipolo della DB elettronica, ma sono troppo pesante, non me la faccio nulla. Mi interessa la licenziatura a me. No, tu costruisci tra. Infatti sto pensando a quella, c'ho una direttiva per la 27, un'altra oltre a quella che ho io, nuova, ancora da assemblare. E sto pensando di modificare quella lì, accorciarla, però ci bisogna sapere i calcoli, i valori non ce li ho. Se c'è qualche progettino. No, non ce l'ho, bisogna progettarla, se no si trova, si fa, ma quello lo puoi trovare senza problemi, non credo sia un grosso problema. Qualche cercanovetta già lo trovi, la costruisci e via, te ne frega. Ma tanto cioè, con tutti i componenti che ho dall'altra, tutti i radialini eccetera eccetera, basta accorciarli e spostarli e basta, è abbastanza semplice, tanto sono tutti i supporti dei coso, degli elementi, i riflettori e cose, i direttori sono tutti ammovibili, nel senso li puoi spostare, c'è una possibilità di spostare. Però se la trovi già bella che è pronta, io l'avevo costruita per la FM quando avevo una piccola radio di quartiere, una dipoli ripiegati, due dipoli ripiegati avevo fatto e funzionava abbastanza bene, una collineare con due elementi, chiuso, il dipolo chiuso era una collineare però aveva dipoli chiusi e funzionava bene, tutti accorciati, accordati come si chiama, concavo eccetera eccetera per arrivare a 52 ohm e c'ero riuscito, l'avevo fatta. E poi c'ho una pronta che me l'hanno regalata, una cubica per la 27, bella grossa, però non l'ho mai piazzata. Sì, la 27 a fila, che ne fai? Vabbè, sono belle soddisfazioni tu quando ti metti a ascoltare qualcuno che non sente nessuno, a me la soddisfazione più grande è quello di dire oh, io sto parlando e tu non senti nessuno, per me è una bella soddisfazione. Sì, quello sì, però se vuoi fare cosa, prenditi questa benedetta patente, vai a dare questo esame, te ne sono dato due che potevi tranquillamente passare. ma penso, dici, per come me lo stavate descrivendo la situazione, penso almeno anche Antonio mi ha detto che era abbastanza semplice, però speriamo, che voi si dica. Vedi tu dove venire. Diciamo un po' meno mi è venuta, diciamo se fosse stato per dire subito dopo l'esame che ho passato l'anno scorso, magari si è andata alla grande, per dire all'aprile, se sapevo che ci fosse il discorso dell'esame mi sarei preparato e sarei andata a mente fresca. Poi a ottobre ho detto no, non ne ho voglia di rimettermi a studiare. Se tu, cioè non ci, per me non, quando me l'hai detto tu, ho detto non vi grido, non è possibile che facciamo un esame a maggio, invece è successo, mai a memoria mia, a memoria studica, ho chiesto anche a altra gente che abbiamo fatto una doppia seduta d'esame nell'arco dell'anno. Sì, due all'anno si fanno sempre. Ma guarda che io gliel'ho chiesto, quando avevamo fatto la prima cosa che era andato con Salvatore Natalino, gliel'ho chiesto, se era no, ma sta scherzando, non c'è il numero, ma già troppo riuscire ad arrivare al numero perché costa soldi, eccetera, eccetera. E invece tanti altri te l'hanno fatto. Comunque, vedi tu. E vediamo se c'è la voglia. Se la fanno a maggio magari. Polarsi, cioè, vediamo, tutto dipende dalla voglia, perché tanto bastano 3 settimane mi bastano per ripassare e tentare quello che ho già fatto io. Poi se ci sono domande che non sai, puoi essere preparato quando ti piace, ma se non sai quella domanda, cioè se non l'hai studiata non fai nulla, come è capitato le prime volte che sono andato. Beh, poi bisogna studiare, una volta fatto quello e via, è così. Quello è normale, ma se tu studi un argomento e di quell'argomento quasi non ti mettono niente e poi ti fanno domande tipo la volta di Marcuni, altro che quello della storia di Marcuni, cacchio, è da dove cavolo trovi, oppure domande su, come si chiama, numeri significativi, cose del genere, cioè sono troppo vasto l'argomento, quello come viene abbreviato nelle resistenze quel codice, per dire 53.420, e lì quella è una domanda, io l'avevo comitato con la fatta giusta, invece l'ho sbagliato. Ho capito. No, io... Aspetta. Ma mi è sfuggito, stavo volendo una cosa. Lo stavo dicendo, ma mi è sfuggita la... Quanti hai fatto ne stai dando il tuo? 15, però... Direttamente. Dammi un controllo così, guardami questo segnale e guardamelo adesso. Oh vabbè, non è salito più di tanto, dai, pensavo salisse un po' di più, ma non è che sale un po' di più. 9.40, 9.50, io quanto ti sto arrivando? 9.40 con i picchi positivi, allora questo è il massimo, anche se dà qualcosina di più normalmente questo giocato. Adesso mi sto riportando a come esco normalmente, questo è il segnale mio. Saturazione quando aumenti. Ma non sta andando bene, perché me sto accorgendo, non sta arrivando al punto dove arriva sempre, sale un po' di più la cosa, come si chiama? Oh, c'è da dire, il microfono non so se si è regolato bene, sì, più o meno così. Tu a che tacca lo metti, al primo? Sì, più o meno al primo, sì. Infatti abbiamo i gemelli, tutti e due la stessa cosa. Sì, si mette al primo, via, sempre così. Non ho mai capito per quale motivo le hanno dato un'escursione così ampia per il coso, per il microfono, mentre se guardi il 140 deve andare alla lettera C per con lo stesso apparato, quasi, non dico al massimo, ma un po' più della metà. Perché se lo manda laterale, poi senza processori puoi sollevare anche 5-6, capito? Che sono fatti per la banda laterale. Sì, lo so, guardami se ti cambia molto la modulazione, da così. Questo modo è normale, senza il coso attaccato. 1, 2, 3, prova radio. Sì, così sei bassissimo. Basso, però è chiara, pulita. Aspetta, vieni avanti che ho sollevato il volume. Allora, questo è senza il clutch. 1, 2, 3, prova radio. Questa funzione con il processore attaccato. 1, 2, 3, prova radio. Sì, c'è un'altra cosa. Però ti sporca la modulazione, no? Ma così sì. Io mi abbinato a questo apparato, mi ho messo un analizzatore di spettro audio, quelli, tipo quelli che usinava in alta fretta, diciamo la stessa cosa, e mi guardo tutte le bande, più o meno mi dà il tipo di modulazione, mi rendo conto chi c'ha più acuti, meno acuti, e dove controlli come. Poi ho messo un indicatore di livello con una piastra digitale, di quelle della Tecnis, cioè una bella piastra, è sprecata qua, due motori con DBX eccetera eccetera, con l'indicatore di livello. Di lì ho memorizzato il livello ideale dalle stazioni professionali e ho messo un indicatore di livello al limite della saturazione. Quando inizia a lampeggiare, quando mi chiedete i controlli, io faccio tutto in base a quello che mi fa vedere questi due display. Io ho capito, sto diventando più pratico, sto diventando. Poi ero, stavo quasi finito di montare quella roba sul pezzo, ho finito quasi il traliccio, cioè finito, devo solo tirare su, adesso è montato, incernierato sulla piattaforma, adesso ho da tirare su, solo che credo che ci vorrà un piccolo tirfo o qualcosa, poi domani mattina ci penso. Ma dalle scale era appunto, dalla tomba delle scale questa roba? Il traliccio, ho aspettato un po' per il carrello, la piastra, tutta la pezza, l'ho fatto tutto componibile. Sì, ma dico, ci si fa nell'ascensore, ci riesce a metterci dentro o a fare dalle scale? Tutto l'ascensore, tutto un pezzo da 2 metri ho fatto. Ah, quindi vabbè, no, pensavo che ci fossero pezzi più grandi, magari che non riuscivo a farcela entrare. Però ho preso il carro, lui mi dice tre parti e poi l'ho rigiuntato con delle piastre. Il carrello, vabbè, quanto sarà mezzo metro. Il resto la piattaforma, vabbè, un metro e mezzo per un metro e trenta. Poi l'accettate questi movimenti, cosa? L'accettate in ascensore. Meglio fare cose smontabili così per manutenzione e cose del genere, vediamo un pochettino. Che per manutenzione per caso, cioè, mi ci voleva anche 70 persone, tutto il palo dritto, portarlo su con delle funi, se mette, meglio niente. Ma non si è sentito nessuno in radio, vabbè, siamo sul canale ascoltato, sicuramente ci sarà un bel di gente ascoltando a orecchie di porco, come si dice. Sì, sta morendo questa frequenza, sta morendo, la stanno facendo morire. Lo so, c'è stato un periodo, io guarda, ci sono da poco CB, non so tu da quanti anni ci sia, io ho iniziato dal 2004, anche se sono sempre stato appassionato da piccolino di radio, mi piaceva ascoltare con i piccoli baracchinetti, quel tipo walkie talkie, qualche volta mi piaceva, il desiderio mio era comprarmi uno, però non ho mai avuto le possibilità, non di dico economiche, però lo spazio per farlo. E dal 2004 ho iniziato, ho preso la licenza, poi come SWL, piano piano mi sono allargato. Nel 2004 fino al 2008 beh, c'era un po' di gente, almeno qualche decina di persone si trovava ancora, non dico tutte in una volta, ma la sera almeno 7-8 persone le trovate. Poi c'erano quelli amici di Alghero, qualcuno in più si era unito, siamo arrivati a una cinquantina di persone in tutto, non dico in una volta, però divise nell'arco della giornata. Adesso raramente senti qualcuno, ma facciamo 2-3 persone. Lo so. Quando ce ne siamo andati noi, non c'è più nessuno, è iniziato a morire. Non so perché. Sì, comunque ogni tanto devo fare se grattie, deve essere qualche problemino, altri problemi che ne trovano però, perché non è fisso, ogni tanto te lo fa. Devi avere qualche falso contatto da qualche parte, qualche saldatura fredda, non so, qualche cosa ci deve essere. Sì, guarda, me ne sono accorto anche adesso, io che stavi parlando ha fatto tipo raschiamento. E infatti ho detto, non lo so, è una cosa male, un po' strana, come questo fa con la banda laterale, non ho mai capito per quale motivo. Adesso mi era venuto il dubbio, ho detto, ma non è che noi stavamo invertendo le bande, tu convinto di essere USB invece di LSB o viceversa, invece mi stai dicendo che non è possibile una cosa del genere. Ecco, registrato, e aspetta un attimino. Sì, bisogna controllarlo. Cosa stavo dicendo? Sì, no, quello con lì ci vuole l'oscilloscopio per fare qualcuna sonda di un quarto di cosa, una cosa particolare. È già un po' più complicata fare una apparatura. Sicuramente è quello, mentre sul 140 l'avevo fatta ed era più semplice, che è un po' più complicato. Ascolta, se vuoi che ha breccato può andare anche sul 10, che non ce ne frega niente. Dai, salutaci e poi vedi cosa vuoi fare. Allora, però... praticamente sono entrato realmente per non per salutare te, ma per salutare una persona illustre come Roberto. A prescindere da questo, ma cosa stai pindacciando questa 27? E poi questi atti di presunzione, da quando non ci siamo noi? È un dato di fatto, però. È un dato di fatto. Capito? È un dato di fatto. Ciao, grazie per il lutto, già sono una persona normale. Grazie Aldo, ben sentito. Se vogliamo rimanere qua non ci sono problemi, o se vogliamo andare sul 10 idem. C'è l'apparato mio, come hai capito, penso che abbia capito, Aldo, c'ha qualche problema, non stavamo parlando di questo con Fabrizio, vediamo un pochettino se si può risolvere, se no penso di sì comunque. Ma qua stai arrivando, comunque saluto tutti e due. Da questa parte Antonio Grotte. Stai uscendo bene, almeno qua, forse perché siamo talmente vicini. Santiago di 9, qualcosa più una radio perfetta 5. 9 solo sto uscendo. Dirti la verità, a meno che non sia stitico questo. Prova un passaggio, Fabrizio. 1, 2, 3, 4, 5, ma sei tu stitico, Forse il mio stitico, sì, perché. E in effetti c'ho il fondo scala 9, me ne sono reso conto adesso. Quindi sì, a fondo scala, dai. Di qua ho detto tu stavi arrivando a 9.35, ho detto che strano, ho detto Fabrizio mi ha dato dei controlli abbastanza simili ai miei. No, allora sono io, perché vedevo anche lui se che è piantato sul 9. Guarda se me lo puoi regolare. E che apparecchio è questa mondetta che stai usando? Mondetta, ecco qua, mondetta. Ho detto chissà. Compa, questo sia detto per il fisco, chi ha i soldi si compra cosa buona, chi non ha come me, chi vende castagne, si compra mondetta. Vabbè, però ci vuole roba buona, cacchio. Vabbè, già ti aspettiamo, quando arrivi lì, cacchio, secondo come sei, cacchio, prendi i colpi, cacchio. Comprati apparecchi come si deve, te l'ho detto, che appena vedi chissà cosa, sei sempre dentro un baratto, a dire c'è la radio che esce come si deve, compa, adesso te lo ripeto, il problema è che non puoi essere così classista, se una persona non ha soldi, non glielo puoi far sentire così tanto questa discrepanza che c'è fra te e lui, Sì, però non è così essere classisti, uno soldi non ne ha, se ne sta a casa, appunto e basta, capito? Non è che va a fare, vuole fare il magnifico. È un pezzo di merda, sì. Sì, come quello che va a protestare, infatti, vabbè, non voglio raccontarlo, però, tra me aveva ragione il professore che gli ha detto, dovevo iscriverlo a suo figlio, allora. Ui, Robè, ma te ne rendi conto, ui. Ho visto che vi volete bene, vi amate tutti e due. Tu, hai visto questo gracchiettio che sta facendo? Te lo ricordi che un periodo ne avevo uno di quelle radio che faceva quel problema? Ma quale? Roberto? Sì. Ma qual era? Che cos'è? Un K che ha problemi col coso, col VFO? Sì, no, a parte quello, ogni tanto te ne gracchiare. Non l'ho apprezzato, adesso fa un passaggio più lungo, magari lo sento. Tu, Anto, con quale stai uscendo per curiosità? No, con una mondetta, come ha detto lui, è un 48 di quelli modificati per fare il gradasso, aspetta un attimino. No, 48. Cappa Roger. E metto pronto a utilizzarlo. CTE modificato, di quelli dove devi parlare così, gli dovresti dare un po' più di eco e fare pronto, pronto, e fare queste risate qua, ora. Mamma mia, che brutto, d'ordine tutto qua, lascia come di prima, che sta andando bene, a me non mi piacciono questi effetti baratto, tamburlana, cose del genere, la voce deve essere più naturale possibile, secondo me. No, ma sono di una porta aperta, l'ho preso perché era un'occasione, con l'idea di rivenderlo e guadagnarne il doppio, capito? Ecco, se ti ho detto Roberto, ti ho detto come quelli che quando uno c'ha la maschera e gli dice dai, tu gli tira la maschera, poi se no il nonno lo rimetti, dai, così meglio. Che pupazzo che sì, madonna. Ui. Ma ne vado alla... oggi mi è arrivata a proposito, ma col numero della patente posso già chiedere il nominativo? Non puoi, devi chiedere il nominativo. No, perché la patente, mi hanno spedito la lettera che la patente era arrivata, invece non è ancora arrivata, però mi hanno spedito il numero della patente, capito? Sì, secondo me lo sì. Adesso io non so se guardo qua dove ce li avrò buttati, moduli, però ce li avevo i moduli, capito? Li hai scaricati? Beh, ho visto un sito dove scaricarli, spero che siano quelli aggiornati. Comunque dovrebbe essere Roma, via del non mi ricordo cosa. All'euro mi sa, all'euro sono allora, no, via dell'euro. Via dell'euro, sei sicuro? Che puttana ci sono, no, ma sono sicuro. Ma cosa c'hai oggi? Ma non ti calmi. Ma che qua posso dire il cazzo che voglio, capito? Infatti, no, vedi, questo dei radioamatori che salgono su e sono tutti quanti in punta di piedi, dopodiché scendono giù e c'è una scorreggia e non è molto carino. Non c'è nessuno lì adesso. No, è giusto, perché te lo dico qua, quando ti sentivo là te lo dico là, ti ricordi quello che ti dicevo? Quello lì ti sto dicendo. Ho sentito Vittorio, non ascolto adesso, c'era Vittorio e forse qualcun altro, forse Marco. Sì, c'era un po' di gente. Io dico solo una cosa, l'ho detto tante volte, l'importante è che uno quando fa il salto si ricordi da dove è iniziato. Tipo roba, scusami, ci siamo sovramodulati, ripeto. Certo, l'ho detto tante volte, l'importante è uno quando fa il salto, diciamo, al piano superiore, ricordarsi da dove è iniziato, per cui molte volte c'è troppa spacconaggine e nessuno si abbassa a ritornare al primo piano dove è nato. Ma guarda, sicuramente c'è gente più seria, tant'è vero che mi sono chiesto sempre come mai abbiano accettato la Fabrice. Lo so, come la hanno accettato. Qui ci sto bazzicando poco, prima di tutto perché non c'è più nessuno, non sento più nessuno, io ce l'ho sempre acceso un apparecchio in ascolto, non è che non ce l'ho acceso. Infatti la 50 mi probabilmente la butto giù, la modifico, la faccio diventare una multibanda. Però alla fine, quando sei lì, ti rendi conto che hai mille possibilità, capito? Mille possibilità, se vuoi fare una chiacchieratina lo fai, te la fai, perché lo stesso te la fai, ci sono le frequenze che devo fare, poi hai mille possibilità, quindi non hai quel poco tempo che faccio alla radio, non hai tempo di fare quello che sto facendo adesso, capito? Quel poco tempo lo usi per fare radio. Quando prima partite te ne renderai conto. Aspetta, c'era qualcuno ti ha sovramodulato? Chi tu eri, Anto? No, negativo. Che è? Arubasso. Poi, Anto? È una schiacciatina gli ho dato, ma non fa niente, dai. Ma, lo sentivo sempre, ecco. Tu sotto un pochettino ti sentivo, Arubasso. Sapevi, questi sono gli amici, eh? Ok, io ci sono. Si sta caricando, Sta togliendo la dinamica, i candelotti, anche Fabrizio. Qua ce ne sono, c'è anche l'antenna storta, cosa vuoi fare? È un bacio. Adesso ti ha schiacciato lui, Anto. È un bacio. Pronto? Allora crepo, come lo crepo, ma male forte. Facciamo le cose passate. Lo sto crepando, ma lo posso crepare o no? Vai. E' Marco? Che è avanti? E chi è? Chi è che ha parlato? Io. No, più forte di voi. Sicuramente era Claudio. È Claudio, mi sembrava Marco la voce. È arrivato un picchio di 9,55 e non so chi sia. Adesso quando ti sto arrivando, roba? Si è arrivato a 9,50, però c'è uno più forte ancora. Chi è questo che sta modulando? Avanti, chi vuole entrare? Vai, adesso ci arrivo a 9,55, devo ancora andare. Ma state parlando in due, Fabrizio Antonio. Yeah. Io faccio prima fa un passaggio tu, Fabri, e poi ti dico Santiago, e poi lo fa l'altro. 1, 2, 3, prova. Sei quasi 9,50, vai tu, Antu. 1, 2, 3, prova, ora, aspetta un attimino che adesso gli do anche una crepata così, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ora. Tu sei un po' di meno di lui, però c'era un altro poco fa che ho sentito, è arrivato più di 9,50. Sì, adesso l'ho sentito anch'io che è gracchiato. Ma tu sapevi con questo 48, non mi credo che sia un 48, cos'è? C'è roba attaccata sotto. No, negativo, è pulito. Ora! E qui puoi mettere anche 1000 parte con 9,40, passiamo a 9,50, 9,55, non di più. basso. Ma perché si sentito? È un basso. Il radio è lo faccio, adesso quando fa la parola sei riuscito a passarla. Bene. Ok, con tutto, ciao. No, non c'è storia, altro, vado a scrivere, devo di brutto, Fabrizio. Progetto centro italiano che sta spopolando tutto il mondo, non mi ricordo come si chiama, da un kilowatt, quell'apparato trasistorizzato che fa accordatore, tutto quanto istantaneamente si accorda l'antenna, può commutare fino a 5 apparati in contemporanea e utilizzare 5 apparati sullo stesso amplificatore. No, non ho visto, come si chiama? Ho visto la prova su circuito elettronica e l'hanno travantato, perché è un prodotto, l'unico prodotto italiano che è riuscito a arrivare in America. C'è la prova, è una cosa spettacolare. Non mi ricordo come si chiama questo apparato, è un transistorizzato digitale, da tutto, cioè ti fa la quadratura su tutte le bande, fa da 0 a 30, questa cosa qua. In automatico non so in quanti, 3 millesimi di secondo, una cosa super veloce, c'ha la memoria su tutte le bande di trasmissione, cioè non so se si fa 100 bande, 100 frequenze mi sembra c'ha di memoria, o 1000, insomma un numero esagerato, c'ha la memorizzata istantaneamente, tu comunque comuni con la frequenza, lui la riconosce, vedete, andando sui 7000, lui automaticamente tac, ti accorda direttamente l'apparato su quell'antenna lì istantaneamente, per attaccarci 5 antenne differenti. Ho capito, chissà quanto costa. Pesa, mi pare, 20 kg, 23 kg, non è neanche enorme come peso, però è spettacolare, c'ha tutti gli indicatori digitali della potenza erogata, potenza di... automaticamente per dirgli puoi dare anche 100 watt d'ingresso, e lui non so quanto è il limite di pilotaggio, automaticamente gli riduce la potenza al limite nominale di lavoro, e sto dicendo una cosa spettacolare, ti dà in digitale, con l'indicazione digitale il ROS, il valore di ROS, la potenza riflessa, cioè c'ha un menu e ti dà tutte queste informazioni. Chissà quanto costa, non ci sa il prezzo. Ma guarda, sinceramente, siccome c'è anche lo spaccato, tutto, l'hanno messo alla prova in laboratorio, hanno fatto tutte le prove, eccetera, eccetera, e come componentistica vera e propria non ce n'è tantissima, perché se tu vai a comprare quelli americani ti fanno pagare solo il nome, come l'amplificazione Hi-Fi, per dire, vai a comprare un Macintosh e lo paghi 5.000 euro, per dire, lo stesso apparato se lo costruisci in Italia fatto da una ditta italiana, ma neanche meglio, lo paghi la metà. Adesso dobbiamo vedere quanto viene, sicuramente costa un pochettino. Oh, se mi ricordo il codice, devo guardare qualche rivista, te lo faccio vedere, te lo cerchi su internet, ma c'ha delle recensioni da paura, cioè, a parte che è bello anche da vedersi, perché è bello, costruito anche esteticamente, oltre che qualitativamente, è bello anche da vedersi, e non è eccessivamente grande, perché solamente su un potente di un kilowatt deve avere, come si chiama, delle dimensioni enormi, questo invece l'hanno fatto entro i 20 kg. Ho capito, veramente me lo guardo, che qualcosa del genere lo dovrò comprare, cioè del genere qualcosa lo devo comprare, ma sto aspettando, so che alla fine diventa tutto troppo complicato, adesso sto facendo questo lavoro sul tetto e sono troppe spese, costano troppo queste apparecchiature. Purtroppo non c'è concorrenza, è quello il discorso, cioè sulla trasparenza, per dire, come televisore, ti ricordi quando sono usciti i televisori CD a plasma, costavano migliaia di euro, adesso te li tirano a faccia, perché ci sono tanta concorrenza, grandi numeri, mentre nel coso, in questa parte di materiali, sono 4 o 5 marchi che costruiscono e ti possono fare il prezzo che vogliono, poi si fanno la guerra uno con l'altro, Icom, Yaesu, eccetera, eccetera, uno le tira un coso, la settimana dopo c'è l'altro che ha ancora qualche cosina di più, ti aumentano il prezzo, poi l'altro ne fa un'altra cosa, se vai a prezzo a quegli apparati, guai. Lo so. E vabbè, non ce ne freghiamo, adesso aspettiamo un attimino, perché sto guardando questo, c'è dei microfoni in vendita e mi serviva la capsula, chissà che funzioni, di proprio la base standard, chissà che funzioni, avevo costruito un microfono, poi non ho mai finito perché mi manca la capsula e questo forse è, c'è anche l'attrattore di impedenza mi sembra. Io ho una modifica per l'MC60, stavo parlando con uno, con un amico e mi ha detto guarda io ho fatto la prova e mi ha fatto anche sentire il microfono modificato, ha detto perché c'ha dei limiti l'MC60, questo è un fanatico dell'alta fedeltà e anche del, diciamo, nelle bande, un radioamatore tra. e mi ha detto guarda se riesci a buscare, io guarda a caso ce l'avevo, della, di un microfono RCS, mi ce l'ho qua, cardioide, un, aspetta come si chiama, l'MD2502, che è molto simile, se tu vedi la testa di questo microfono, siccome è smontabile, ti assomiglia, che è una cosa impressionante alla testa dell'MC60, gli dice, ripiatti questo, ti cambia completamente, infatti l'ho anche sentita, oltre che avermelo detto, la qualità di corso, di emissione. Non lo so, lui nasce così, secondo me così deve rimanere mia figlia. No, c'è da dire che 440 probabilmente è uno dei migliori apparati, insomma 140, 430, su questo tipo di base, diciamo, di banda di trasmissione, perché vari propri apparati più sofisticati magari fanno anche male. Io ho sentito un, aspetta che cos'era, non mi ricordo se era un Yaesu 940, lo faccio la Yaesu 940, no 920 sbaglio, in banda cittadina faceva schifo. Bene, la maggior parte degli apparecchi in M non vanno bene, ma io perché lo voglio dare? Perché per la fine in M quando mai ci esci, poi una volta che sera all'inizio prendo un baracchino, oppure esci lo stesso, perché il 950 esce bene, si sente bene, non tutti sentono bene, certo non sono da combattimento, ma non se ne frega niente. Con questi nuovi digitali, io per il TS2000 la maggior parte delle persone che ho sentito faceva schifo, l'ho sentito regolato come doveva essere regolato e andava bene anche in AM. Aspetta, scusa. Papà. Eccomi qua, ho mio figlio che voleva cambiare, non ho capito cosa. Salvo le ammiro per il discorso dell'alta fedeltà, però su trasmissione sinceramente, a meno che non c'è qualcosa di super sofisticato, però sono più problemi che altro. Vabbè, io mi ho costruito un microfono a valvole e mi manca proprio quello lì, infatti fra un po' ce n'è uno, se riesco a prenderlo, uso quello come microfonino, vediamo come va. No, sto parlando delle amplificazioni io, di cosa sto parlando? Sì, ho capito. Sì, gli amplificatori a valvole ci vanno bene, non è che vanno male. Sulla banda di trasmissione stai parlando? Sì. Guarda, Fabri, forse non so cosa c'hai tu, se c'è qualcosa di grosso americano, da apparati per dire sovradimensionati, ma la maggior parte di quelli che trovi in commercio, di quelli tipo ZG e cosa sono gli altri, CTE e cose del genere, sono giocattoli. Ti tirano fuori per dire 500 watt, di questi 500 l'80% è pulito, il resto il 20% è saturazione. No, quelli vanno in soprattutto le spurie, capito? E allora non c'è una valvola qua, e va più che bene, ma non so nemmeno cosa me ne faccio qui alla fine, perché non lo uso mai. Credo che mi vorrò prendere qualcosa in bande HF, vediamo, no, a fine bene, cioè se vedi, sono troppe cose sto facendo, non si può fare tutto. Infatti è quello il problema, anche io sono così, troppe cose sulla testa e poi magari non riesco a portarle a temere neanche più. Così, capito così. Comunque stai gracchiando in trasmissione ogni tanto. Adesso me lo scrivo, l'avevo letto anche da qualche parte. Sì, ma ho fatto momenti, infatti quando stai parlando tu ti ho sentito per un attimino cric cric. E poi di colpo no, ma chissà per quale motivo. Perché se fosse problema di microfono, capito, c'è la batteria magari a cambiare, invece questo è alimentato dalla radio. No, ma faceva anche uno mio, adesso non mi ricordo, ora fai ricordare. No, lì era la potenza, mi sembra, in uno. Era sulla scheda IF, mi sembra, a fianco c'era qualcosa, l'avevo trovato, sei sempre comunque toccando, perché poi alla fine è vecchia la radio e da quel problema. So per così, in elettronica, c'è TTP, in elettronica c'è già visto i componenti e non c'è niente da fare. Come becchiamo le persone, becchiamo anche gli apparati. Adesso trovo ancora, perché vedo da qualche parte l'ho trovato, capito? Tutto dipende dai componenti, se usi roba di qualità, magari qualcosa in più duri. Io per fare che sono collezionista di radio d'epoca, ne ho tantissime. Ne ho qualcuna che è andata male subito, nel senso la tenevi spenta dopo qualche anno, tu attaccavi, facevano i condensatori, tu e andava in corto. ne ho una, la più vecchia di tutte, una vecchia voce del padrone, proprio la più vecchia di tutte. Questa, quando qualunque momento l'accendo, va sempre bene. Ed è una radio del 1938-35, quel periodo lì. Le prime, che non dico le prime, sono diventate dal 24, le prime trasmissioni, diciamo, d'ascolto normale, bloccati. In Italia siamo dal 35-34 le prime radio, non è stata bella. E quella che c'è è una delle primissime che avevano fatto, questo originale inglese, voce del padrone. E c'ha dei componenti di altissima qualità e non è mai successo in radio più giovani, tu attaccate subito il fumo, partiva il condensatore, quelli vecchi a luglio. Roba vecchia, infatti per quello io la darò via, perché questa radio vecchia alla fine tutte così sono. Roba io che quello che sto disturbando qua, che c'è il bambino che li sta mettendo a letto, se no oggi prendo colpi. Ci sentiamo fatti sentire, ci sentiamo allora. Grazie della compagnia. Quando abbiamo qualche minuto di noi tempo, cioè, ci sentiamo così magari ci organizziamo se voi siete tempo di farla la cosa. Buona serata, buon proseguo e buona giornata per domani. Cuore rete da parte mia, ciao ciao. Ciao ciao. Ah. Attento Gianni, capri 2 se mi copi. Hola Gianni. Gianni, mi copi? Ci sei? Gianni? Attento Gianni Capri 2. Ora. Ora. Ora, prova. Una notte a sereno vuole messo e tolta la vescica. tolta la vescica e tolta bene, perché se, la, se rompi la vescica ti fa quell'affare lì. E già, e vabbè, a me la lepre non è che piace tanto perché ha la carne dura. Ha la carne, sapore di selvatico, a me questi sapori, nemmeno il cinghiale piace. Sarci. Adesso magari ci avrai più difficoltà a digerire e stare più leggero la notte, fa una minestrina e a letto. Aspettiamo, ma non si vicino, no. C'ha 53 anni, quanti ne hai? 52, 53. Ma io la verità questi problemi non ce li ho. Ce li ho solo, se per dire, troppo l'aglio. L'aglio non lo digerisco, quello sì. Però le polpette, per dire, senza aglio non mi piacciono. Mia moglie ha provato a farle senza, però non hanno sapore, non è come avere con l'aglio. No, io già me la mangio tutto, però non ne voglio altro. Cioè, per dire, mia moglie non ha problemi, ce lo vuoi, la metto a nonno. Mangio quella lì e basta. Non ne mangio altra. I costumi della pizza sono tonno e cipolle, frutti di mare e zuppetta di mare. Quindi sono le mie tre pizze preferite. Ma scusa se te lo dico, ma questo è ignorante, non ti fai le analisi per scoprire niente. Le analisi ogni tanto si fanno. È meglio prevenire che curare, no? Diceva quello. Io per dire, il diabete che ho, ce l'ho, è un diabete da pasto il mio. Prendo le pastiglie, non è che faccio insulina, però è per l'alimentazione sbagliata, perché io mangiavo panini, mangiavo questo, mangiavo l'altro e alla fine mi ha puttito. Vabbè, io ero anche predisposto perché c'era mamma che era diabetica, però anche l'alimentazione ha contribuito. Infatti mi ha detto, ti sarebbe potuto venire anche fra 20 anni, però magari ti sarebbe venuto lo stesso. E in ogni caso avresti potuto evitare e fatelo venire da giovane. Fai dieta, diminuisci le quantità senza eliminare del tutto e vedrai che dimagrisci. Io ogni tanto lo faccio, per dire, o l'elimino del tutto o mangio pochissimo a pasta. C'è latte, la frutta la mangio, e poi un pesce, una fettina di carne bianca, un petto di pollo, qualsiasi cosa così. Certo, non mangi con il gusto che cerchiamo noi, perché sono sicuro c'è gente che mangia solo per vivere. Per dire, mia moglie è così, mia moglie mangia per vivere, basta. Non si vive per mangiare, ma si mangia per vivere. Però io, per me, mangiare è proprio una cosa che soddisfarmi, è una cosa che mi appaga mangiare, deve essere buono quello che mangio, perché se no non ci prendo gusto. Magari si regola, perché il mio dottore dice mangiare bene una volta alla settimana, il resto della settimana a Ramadan. Bisogna fare qualcosa, allora già, vai da un dentista, vai da qualcuno che ti dai dei consigli. Anche un dentista va bene, a me un dentista aveva fatto scendere 50 kg, una dentista. Si chiama, come cavolo si chiamava? Adesso Maria Grazia Miglia. Io non lo so, adesso vediamo. Non ce l'ho più, quindi magari me lo rimetto. Cosa ti stavo dicendo? No, ma mio padre, per dire, mangiava meli saccati, si faceva anche il lardo a fettine, tutte queste cose qua, però è stato sempre longilineo. Per longilineo, è morto a 96 anni. Rosami, quello fatto col sale, lo faceva anche mio padre, col sale grosso e cose, veramente salippone lo chiama. Mio padre beveva un bicchiere a pasto e basta, normale, a volte si metteva anche l'acqua dentro, non lo beveva più, no. E però si faceva le salsicce, le faceva lui. Le appendeva tutte quante, a volte non gli dava tempo manco di asciugare, perché lui era tipo di salumi, era milanese, quando andava su a Milano si portava anche il salame d'oca, che qua non si trova, salame d'oca le ne mangiava. E ci sono ancora quelle buone, le mostre delle buone già ci sono, già. Però ti devo dire una cosa, più è profumata la mozzarella più conservante c'ha, per esperienza lo so, con gli arachidi, sì sì. Prima mangiavano avanzi, andavano nei ristoranti a prendere gli avanzi e queste cose, che pure davano i maiali, però era una roba genuina. Poi l'altra volta era al porto e stavo portando dell'acqua alla capitaneria e praticamente è passato questo autotreno tutto pieno di maiali ed era roba francese, perché le scritte erano in francese, belga o francese, comunque le scritte erano in francese e praticamente c'erano i maiali vivi, magari portano a farli, ma ce li fanno passare per sé. E io, vabbè, quando mangiavo la pizza e cosa, non è che ne mangi tantissimo, anche c'è più la carne sima. Del burro ne volevamo parlare, quando facevi la pasta al burro prima ne mettevi un pezzettino, ti dava questo sapore così buono, adesso non ha più sapore nulla, manco il burro. Usava burro Celsa, non è che usasse chissà quale burro, però era bello saporito prima. Il sapore va tutta la pasta, beh, è un buon sapore. Adesso, ma si sente appena appena, sembra bullita. Ma io sì, tranquillamente, e fanno un odore un po' sgradevole, là. Odore di erroneo. Vabbè, vabbè, comunque è così, ma i procedimenti di allevamenti, eccetera, eccetera, non erano così come adesso, capito? Perlomeno industriali, adesso proprio industriali, a livello che ci sono i macchinari che buttano le mangive, mangiano, eccetera, eccetera, vivono stretti per farli ingrassare. Un po' di stanchezza tutta la giornata di lavoro, già ce l'ho la verità, eh. Poi il letto te lo concilia già. Ti saluto, dai, buonanotte e buone cose per domani, dai. Sentiamo che mi sta venendo la biocco. Non so, ciao, ciao, buonanotte.